Mi sveglio nella notte, trovo il tuo cuscino. Non è cambiato molto, forse il sentimento. Vorrei aprire gli occhi e averti qui vicino a me. Che tu provassi quel che sento. Ma ogni sforzo è inutile. A te, non so pensare che a te. In un attimo puoi vivere.